Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'Adico. Un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, oggi torniamo a parlare di viaggi. Insomma, l'estate è finita, però magari questa dei viaggi è una cosa che prosegue, perché capita sempre di doversi organizzare per un viaggio turistico e capita magari anche di trovare delle difficoltà oggettive che poi vanno a rovinare quella che è la nostra vacanza o il nostro viaggio di lavoro. Di che cosa parliamo? Sì, ormai sembra che all'autunno si stiano concludendo un po' tutte quelle attività che abbiamo svolto quest'estate, riferite in particolar modo alle vacanze, perché anche questa settimana abbiamo un felice epilogo di una vicenda che ho avuto due persone che si sono rivolte all'Adico qualche tempo fa, proprio per un problema legato alle vacanze, che proprio di questi giorni è arrivato, gli sono arrivati le richieste esaudite, per cui la restituzione delle somme richieste. Nello specifico parliamo di un viaggio che avevamo già accennato quest'estate, dove delle persone si erano trovate in difficoltà perché era stato anticipato l'orario del volo di ben 12 ore. Sì, esattamente, una coppia di persone che sono rivolte all'Adico, quest'estate si hanno lamentati di come non potevano poter soddisfare queste pretese dell'agenzia, che gli aveva visto anticipato il viaggio dalle 20 di sera alle 7 del mattino, e quindi si sono trovati nella condizione di dover rinunciare al viaggio, anche a fronte di quelle che erano delle possibilità che i soci si erano resi promotori di voler assecondare all'agenzia in virtù di quello che è stato un imprevisto che non è stato determinato da loro, ma che l'agenzia non ha saputo a soddisfare o proporre delle alternative che ai soci potessero andare bene, e pertanto queste persone si sono volute rivolgere all'Adico per richiedere l'intera restituzione del pacchetto viaggio, che montava circa 2.800 euro e che hanno voluto indietro fino all'ultimo centesimo. Mi pare di capire che quindi la vicenda è finita bene, hanno ricevuto questi soldi? Sì, le persone hanno ricevuto proprio in questi giorni l'assegno da parte della direzione Mondo, che era l'Alpitour con cui tu operato, l'Alpitour con cui appunto queste persone si erano rivolte, e che pertanto manifestiamo con la nostra soddisfazione l'esito positivo di questa vicenda, perché ricordiamo a tutti gli ascoltatori che l'estate, ma anche tutto l'inverno, è operativo lo sportello Vacanza Informata, che a fronte di queste problematiche che insorgono, che vedono il consumatore vittima di quelle che possono essere degli imprevisti che capitano prima, dopo, ma anche durante le vacanze, quest'estate ha veramente lavorato con grande intensità, un po' durante tutto il periodo, compreso anche l'agosto, e finalmente adesso stiamo chiudendo praticamente un po' tutte le pratiche che erano o che si sono aperte, e che vede grande soddisfazione dei nostri uffici, del nostro lavoro e soprattutto anche dei nostri soci. Volevo chiederti, Carlo, è più facile che si trovi un accordo soprattutto con le grandi agenzie di viaggio piuttosto che con quelle più piccole? È un pensiero? È una bella domanda, oltre che un bel pensiero, perché oggi sappiamo che nel momento di crisi esiste molto l'improvvisazione, ma sia da parte del consumatore che da parte anche di alcuni noti professionisti. Certamente rivolgersi a certe compagnie, a certi operator, può dare una maggiore sicurezza, però è anche vero che qualche avvertente è sempre preferibile doverla seguire a prescindere chi sono i nostri interlocutori, perché nel caso specifico innanzitutto è importante conoscere i nostri diritti, e in questo caso il signore li conosceva bene, perché oltretutto è un avvocato, ma che ha voluto affidare la sua pratica direttamente ai nostri uffici proprio per i motivi che si è sentito leso, e quindi non ha voluto assecondare le richieste dell'agenzia. Però soprattutto anche per chi prenota tramite internet e per chi magari decide di voler organizzare il viaggio della sua vita, magari una piccola assicurazione o un consiglio all'associazione prima di sottoscrivere un contratto è sempre opportuno per non incappare poi in brutte sorprese. Ecco, questa dell'assicurazione è una cosa che si sa, si conosce, ma magari qualcuno, pur di risparmiare quei 20-30 euro, non la fa e poi si trova magari costretto a rinunciare a un viaggio e anche a un valore molto più importante. Quindi magari è un consiglio quello che diamo, quello dell'assicurazione sul viaggio. Sì, soprattutto se di mezzo ci sono anche dei bambini che magari sono più esposti anche ad ammalarsi. Poi non c'è solo l'assicurazione, ma c'è appunto anche la possibilità di consultare internet non solo per le offerte, ma anche per le recensioni, per i blog. Poi internet, ricordiamo, è uno strumento molto utile anche per fare i paragoni, ma soprattutto quando si vanno su agenzie di leggere attentamente quelle che sono le condizioni dei contratti proposti e non avere la fretta, cercati da mete favolose, a non sottoscrivere contratti strani. E soprattutto ricordarsi che se qualcosa capita durante le vacanze, di cercare di documentare con fotografie e testimonianze il più possibile le situazioni che si possono determinare, perché poi questo materiale aiuta molto l'ufficio legale dell'Adico a risolvere controversie. La macchina fotografica, il telefono, lo smartphone è utilissimo proprio per memorizzare visivamente anche le condizioni magari della camera che non è proprio pulita, piuttosto che sono tutte cose che servono poi a far valere i propri diritti. Grazie anche per oggi all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, al presidente Carlo Garofolini. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.